ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Era il gioiello del nostro impero. Cittadini di Pompei, che i giochi abbiano inizio! Un luogo di corruzione. Uccidetevi! Di tentazioni. Cassia, quello schiavo ti guarda come se stesse sognando. E di lotta. Come ti chiami? Mi chiamo Milo. Per la sopravvivenza. Domani si combatte. Gli schiavi che sopravvivono ottengono la libertà. La gente accorreva qui, da tutti gli angoli dell'impero. Se ti trovassero qui con me... Sono pronta a rischiare. Che cos'è? È la montagna. Ma nonostante la nostra forza... Lo senti anche tu? Vivevamo nell'ombra di una potenza superiore. Sopravvissuta alle eruzioni del Vesuvio, ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Pompei ogni inverno rischia di morire un po'. E questo è stato un inverno particolarmente difficile per la città romana per eccellenza. Un inverno di crolli numerosi e ravvicinati, un inverno anche di furti clamorosi e di polemiche, un inverno di soldi a rischio e di minacce europee, ma pure un inverno di cambiamenti profondi nella gestione. 105 milioni di finanziamento comunitario per il grande progetto Pompei che Bruxelles più volte ha visto a rischio proprio per le condizioni del sito archeologico più famoso e importante al mondo, dove per anni i soldi, tanti, sono stati spesi in grandi eventi, discutibili ristrutturazioni, e intanto mancavano gli archeologi e l'acqua continuava ad infiltrarsi nelle antiche pietre, innescando i crolli. Come il più drammatico della Schola Armaturarum, un'intera palestra sulla centrale Via dell'Abbondanza. Quest'anno sono stati soprattutto muretti e pezzi di affreschi a venir giù, ma anche se di minore importanza, ogni crollo a Pompei è un danno enorme. Per anni si è fatto altro, ammette il nuovo sovrintendente Massimo Usanna, sbarcato sotto al Vesuvio dopo anni di studio e di insegnamento in giro per l'Italia e in Germania. Ammette i ritardi accumulati, gli sprechi forse non evitati, ma soprattutto ora vuole guardare al futuro e ai progetti di manutenzione ordinaria finalmente partiti. I crolli ci sono stati, lo sappiamo, ma io credo che il problema è stato un po' ingigantito, nel senso che si è trattato in tre casi di crolli di piccola rilevanza, non è la stessa cosa della Schola Armaturarum, è ben altro, e sono crolli dovuti a problemi legati soprattutto al dissesto idrogeologico, quindi l'abbondanza delle piogge ovviamente ha fatto sì che laddove i grandi accumuli di terra, di lapilli, che spingono sulle strutture, e queste in alcuni casi hanno ceduto. Allora questo vuol sicuramente dire... lo ricordiamo perfettamente che la Schola Armaturarum fu il crollo dell'intera palestra, certo, di quell'intero edificio sulla Via dell'Abbondanza, diverso, quindi certo. Un crollo significativo è evidente. Questi si sono stati, come lei ricordava, dei crolli di singoli muri, però è evidente anche che anche muri, soltanto piccoli muretti, però io devo ripartire da che su Pompei che... anche soltanto il crollo di un piccolo muretto è qualcosa di grave, ecco. Sì, però io vorrei partire da un dato che forse spesso si sottovaluta, cioè che qui abbiamo a che fare con il sito archeologico più esteso del mondo, e che sono 44 ettari di rovine, e le rovine, ahimè, fisiologicamente tendono a perdere pietre e ad avere piccoli cedimenti. Questo non vuol dire, certo, che stiamo ad assistere ai cedimenti inermi, ma proprio per questo è stato messo in moto il grande progetto Pompei, che seppure ha avuto dei ritardi all'inizio, adesso è partito. Non si vede ancora molto, perché la prima parte è stata quella di progettazione. Per esempio è attivo il cantiere del dissesto sul dissesto idrogeologico, che era uno dei punti chiave per evitare altri crolli in futuro. Cioè... Questo è un punto centrale su Pompei, che è vero che tutti quanti i crolli, a quelli più gravi a quelli più piccoli, sono per lo più stati causati dal dissesto idrogeologico, quindi dall'infiltrazione di acqua, e anche anche vero che sarebbe necessario ci fosse, diciamo, la possibilità di proteggerla nel modo adeguato. Certo. Allora, questo vorrei proprio chiederle di questo progetto in che cosa consiste, perché fino adesso uno dei problemi centrali era stata anche spesso denunciato come i tanti anche finanziamenti che arrivano a Pompei, quelli che si autoproduce per l'alto numero di visitatori e quelli che negli anni ha sempre avuto, sono stati anche spesi, l'abbiamo raccontato più volte, in altri modi, in altri progetti, a volte anche faraonici e a volte contestati, quando invece la cosa più importante ma meno visibile è proprio quella di tutelare la garanzia della sopravvivenza stessa di Pompei. Certo. In che cosa consiste? Allora, non voglio entrare sul passato, su quello che è stato fatto e non è stato fatto, tra l'altro. Però invece concorda che fino adesso un serio piano, diciamo, di difesa idrogeologica dello stato di Pompei non c'è stato. Ma c'è stato, però è stato progettato nello scorso anno. Era ben chiaro che il problema andava risolto a monte, cioè non intervenendo su restauri a pioggia nelle varie aree di maggiore e minore degrado, ma intervenire sulle cause, cercando di evitare appunto gli effetti che da queste cause derivano. Certo. Cioè c'è tutta un'area che le sa di Pompei non scavata, cioè di 44 ettari ce ne sono un terzo della città non è stato scavato, cioè le Reggio terza e nona hanno gran parte sono coperti da cumuli di lapillo. Questo che vuol dire? Che proprio in queste aree che poi premono sui confronti di scavo, sulle strutture delle aree invece visitabili, fa sì che tutta una serie di infiltrazione abbiano causato nel tempo una serie di problemi. Allora, questo cantiere è già partito innanzitutto e si sta facendo dei saggi archeologici preliminari fondamentali alla messa in opera di un'opera di canalizzazione che farà sì che le acque vengano incanalate e portate al di fuori dell'area archeologiche, non al di dentro come invece fino adesso accadeva. Quindi era una cosa sbagliatissima portare le acque all'interno? Nel tempo tante cose si sono ovviamente la consapevolezza di tante cose si è prodotta nel tempo. Allora lì su queste aree non scavate in passato era stata data in locazione a coloni che ci coltivavano e sono state fatte tutte le azioni per liberare anche dai coloni, da chi aveva degli affittuari queste terre, e di lì si è partita. E immagino che non sia stata un'operazione semplice. Capisce bene, certo. Hanno posto molto, diciamo, resistenza ambientale, chiamiamola così. Diciamo ci sono ancora delle situazioni da risolvere, però il grande è stato risolto e quindi questo ha permesso poi l'inizio dei lavori e questo farà sì che questo lavoro, che deve essere chiuso entro il 2015, si risolverà già una parte dei problemi. Contemporaneamente è stato progettato la messa in sicurezza delle strutture emerse, cioè tutta una serie di operazioni di restauro o di puntellamento laddove questo sia richiesto, perché per evitare che ci siano ulteriori crolli. E questo vuol dire, sovrintendente, che in queste zone che diceva lei poco fa che ci sono dei problemi seri, ci sono, diciamo, c'è un rischio crolli alto, più alto che nelle altre? La nostra mappa del rischio, ci sono ovviamente zone che sono più degradate perché più a lungo esposte agli agenti atmosferici per problemi di coperture messe in passato che non erano adeguate e che spesso vengono giù, cioè spesso quello che viene giù sono i restauri moderni più che le strutture antiche. Per ed coprire. È significativo anche questo su come sono stati fatti quei restauri, su come sono stati spesi anche i soldi. Però deve anche pensare che sono restauri che si sono accumulati dal dopoguerra, spesso dimentichiamo che Pompei è stata bombardata in maniera gravissima nel 43. Mi parlava di una vostra mappa del rischio, se dovessi darci qualche indicazione sia di termini, diciamo così, numerici, nel senso di quante domus o di quante ettari, quante zone sono, diciamo, più a rischio di altre, a rischio crolli, o qualche indicazione sui luoghi che in questo momento vi creano per voi più preoccupazione, quali possono essere? Tutta la parte dove che è esposta, che è aperta al pubblico, questa è a sicurezza piena e quindi sa che una buona parte è visitabile. Diciamo, fra aree pubbliche e aree private abbiamo buona parte di Pompei che è considerando anche le strade eccetera. Ora quello che le posso dire è che in tutte le zone che non sono aperte al pubblico e che quindi possono avere a breve o a medio termine dei problemi, queste sono monitorate monitorate. Però all'interno di questa ampia area che non è visitabile dai, appunto, dai turisti, dai visitatori, ci sono situazioni che sono molto diverse le une dall'altra. Certo. Quali sono quelle più critiche? Quelle più critiche, per esempio, sono spesso proprio quelle, i cosiddetti fronti di scavo, dove i terreni, le aree non scavate possono incidere. Per questo si è partito subito col dissesto idrogeologico, perché tutta quella coltre che spinge può creare problemi. E allora questa è una delle situazioni sicuramente più critiche ed che va messa subito a regime, va subito risolta, e per questo si è partiti subito lì. E dopodiché non solo vanno fatti questi lavori di messa in sicurezza, ma quello che andrà fatto in futuro è una manutenzione sistematica, che forse su questo si è un po' a volte, non so, è saltato un anno, si è fatta meno in alcuni anni, eccetera, eccetera, ma quello che andrebbe fatto è ogni anno deve partire un bando di manutenzione ordinaria che sistematicamente risolva quei degradi quotidiani a cui una struttura, un manufatto architettonico è sottoposto. È proprio la manutenzione quotidiana che spesso a Pompei per anni è mancata, innescando crolli e a catena pure dimissioni dei ministri della cultura come Sandro Bondi, dimissioni invocate in aula da Dario Franceschini, che ora siede su quella stessa poltrona con gli stessi problemi. Debba prendere atto che la maggioranza di quest'aula ha chiesto un suo gesto di responsabilità attraverso le dimissioni e quindi rassegni le dimissioni. Ma Pompei deve fare i conti anche con la prostituzione davanti agli scavi, con il rischio di infiltrazioni camorristiche e con gli sfregi che in tanti, troppi, vogliono mandare ad altre persone, colpendo proprio le antiche mura della città romana. A ciascuno il suo. Fatture gonfiate, lavori non indispensabili, presunta corruzione di funzionari pubblici, truffa allo Stato, finisce sotto la lente degli inquirenti la commissione commissariale degli scavi per i lavori eseguiti nel 2008 a Pompei. Tra gli indagati l'allora commissario per l'emergenza Marcello Fiori per abuso d'ufficio continuato. Gli scavi di Pompei sono stati nuovamente deturpati. Questa volta non è la mancanza di manutenzione della più nota area archeologica del mondo che fa notizia, ma l'affidamento irregolare dei lavori per restaurare il Teatro Grande. La Guardia di Finanza, che sta curando l'operazione, parla di anomale modalità di assegnamento dei contratti. 5 le persone accusate di corruzione, frode, abuso d'ufficio. Tra queste c'è anche un'arrestata finita ai domiciliari, Anna Maria Cannavò, rappresentante legale della società affidataria di alcuni dei lavori nell'area archeologica. I crolli, ma pure i furti, la prostituzione davanti agli scavi, le false guide, le truffe ai turisti, i rischi di infiltrazione camorristica, gli sfregi dei tanti arrabbiati. Pompei ogni giorno è lì, fragile nella sua infinita bellezza, esposta a una successione infinita di rischi, colpa della natura, del difficile ambiente circostante, ma colpa anche di politiche centrate negli anni più sulla spettacolarità che sulla faticosa, invisibile opera di conservazione e manutenzione delle pietre, che passa ad esempio attraverso un piano contro il rischio idrogeologico che, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, solo ora è davvero partito. Ma ad insidiare Pompei sono davvero in tanti e il neo soprintendente Massimo Osanna anche per questo ha esitato e non poco prima di accettare l'incarico prestigioso che rischia di bruciare però ogni esperto di archeologia. Accanto a lui il Ministero ha voluto una squadra speciale guidata dal generale Giovanni Nistri, già a capo del nucleo dei carabinieri di tutela del patrimonio artistico. Forse in Germania Pompei sarebbe più al sicuro, ammette con un'iperbole il soprintendente, la cui missione per ora è salvare Pompei qui in Italia, renderla più bella facendo i conti anche con tutto quello che c'è al di fuori degli scavi, camorra compresa. Concorda con me che, sia considerando tutto il piano sul dissesto idrogeologico, sia considerando la manutenzione ordinaria, su Pompei ci sono anni di ritardo e anche di disattenzione nei confronti di quelle che sono proprio le attività fondamentali per la sopravvivenza della stessa Pompei? posso in parte concordare con lei, ovvero anche però qui a Pompei lavorano anche persone che si veramente con abnegazione hanno... Questo non abbiamo alcun dubbio, però è un problema a monte di gestione anche proprio dei finanziamenti, perché si sa che sono anche operazioni molto costose, diciamo, quindi sono una progettazione. Che si è preferito fare altro. Si è preferito, diciamo, dare così eventi che avessero un più un maggiore richiamo mediatico anche. Questo, ma anche se magari pensare ad opere pure necessarie. Si è dato anche inizio ad una serie di costruzioni anche di grandissimo respiro, non ancora completate. Quello che vorrei è cercare di finire, che si chiudano tutte queste opere che sono rimaste a metà per un problema o per l'altro, uno perché non era stato previsto il collaudo antisismico, perché era un progetto precedente a, no, all'entrata in vigore di certe norme. So, la cosa devo dire che mi ha un po' sorpreso e soprattutto mi crea più affanno è che parallelamente ai lavori del grande progetto bisogna appunto fare in modo che vengano svolti fino entro il 2015, sa, i termini per il finanziamento sono quelli. Certo, il finanziamento europeo. Esatto, parallelamente a quello ci sono tutta una serie, una miriade di problemi da cui penso siano stati sovraffatti anche i sovrintendenti che mi hanno preceduto, che spesso non lasciano un minuto di tempo per dedicarsi a cose. Certo, e voi è come se foste i sindaci di una città che esatto, in rovina con tutte le difficoltà. Fin qui, ecco, le gare bandite sono per 40 milioni di euro, giusto? Per il piano delle opere. E sì. Nel corso di quest'anno dovremmo arrivare anche già a 60 milioni. Insomma, ci auguriamo veramente che entro di spenderli entro il 2015. Adesso quindi i 105 milioni del sì. grande progetto finanziato dall'Unione Europea, lei li considera ancora a rischio o non più? Questo lo possiamo dire solo nel 2015, adesso è difficile prevedere anche eventuali intoppi. Non può essere, diciamo, sicuro di riuscire a utilizzare, diciamo, per intero il finanziamento europeo. Sarà definita la struttura del grande progetto che è diretta dal generale Nistri. Dal generale Nistri, sicuramente. La stazione appaltante passa al grande progetto, questo mi rende particolarmente lieto, perché questo vuol dire avrò più tempo per... occuparsi della parte archeologica che a lei interessa di più. A proposito non di questo... Della parte archeologica, ma della soprintendenza, nel certo. senso, la soprintendenza non è solo Pompei è Ercolano, è Castellammare, è Oprontis, anche Oprontis è un luogo dove bisogna agire con urgenza, anche lì ci sono cose che ho trovato, progetti in corso, ma forse è quello che bisogna fare, accelerare, perché forse non si è capito qui all'interno che non si può più ragionare con tempi che sono i tempi normali, perché siamo in una situazione di evidente rischio, perché è una di poche aree dove le strutture archeologiche sono quasi tutte in piedi. C'è un rischio sopravvivenza anche per Oplonti e per le altre importanti? Non direi sopravvivenza, direi un rischio di progressivo degrado, che va invece non solo monitorato, ma fermato, ma monitorato sistematicamente. Vedo spesso un mosaico che ha il muschio sopra, un mosaico dove una tessera salta. Allora vanno accelerate proprio queste attività, che sono quelle di quotidiana buona manutenzione. Noi abbiamo per esempio delle cose che qui funzionano benissimo, per esempio la manutenzione del verde, ho un funzionario bravissimo, il verde qui è come in Svizzera. In compenso però fino a non molto tempo fa c'era una situazione, diciamo, complicata, lasciando stare tutta la polemica sui cani randagi, c'era tutta una situazione complicata riguardante il numero degli archeologi. Adesso quanti sono gli archeologi al lavoro quotidianamente su Pompei? C'è stata l'immissione di nuove forze e quindi abbiamo, oltre ai funzionari storici che già abbiamo, e su Pompei 3 ne abbiamo avuti altri, abbiamo avuto altri 20 funzionari, 8 architetti e 12 archeologi, quindi insomma è un buon numero. Adesso è una buona squadra, prima era praticamente inesistente. È una buona squadra perché sono anche gente giovane con entusiasmo, che ha voglia non solo di fare, di imparare. Pompei ha l'importanza che non ha simili altri posti al mondo, eppure succede anche che un affresco possa essere rubato. Cosa è successo? Per me non è uno sfregio, nel senso non è un furto come è stato anche ventilato all'inizio da mercanto d'arte, eccetera, perché è stato fatto in maniera ipermaldestra, non da chi sa cosa e come rubare, perché se si voleva fare un furto serio, allora si staccava tutto il pannello, non ci volevano 10 minuti in più, non era una cosa molto più difficile, si faceva in maniera diversa. Allora mi sembra che sia stato un po' un atto vandalico. Purtroppo, devo dire, non è difficile in una zona tra l'altro chiusa al pubblico scavalcare un cancello. Un atto vandalico da parte di qualcuno che sa che lì c'era un affresco, sa anche come portarlo via, però. Erano 15 centimetri. Beh, però io non lo so staccare un affresco. Ma se viene glielo insegno, è molto facile. Preferisco ammirare un affresco di Pompei, diciamo, certo, lì dov'è, ovviamente. Ma secondo lei uno sfregio nei confronti della struttura Pompei, nei confronti da parte di qualcuno che ha delle... C'è un'indagine, io spero proprio e ho molta fiducia nelle forze dell'ordine che facciano luce sulla... Senza alcun dubbio, però chi ci sta a volte, diciamo, ha un po' anche il sentore. Poco tempo prima era stato restituito un frammento di affresco via posta, non so se sì, aveva sentito, sì, ecco, certo. E si è confusa pensando che fossero due episodi collegati. Allora, in quel caso era un furto di 20 anni fa, cioè di qualcuno che aveva sottratto appunto un pezzo di intonaco che allora era ancora in situ, di intonaco dipinto, quindi di affresco, e che evidentemente poi pentito dopo 25 anni ce l'ha restituito per forza, dopo che quella parete era restaurata in Germania e poi aveva fatto anche vari giri di mostra. Uno sfregio è anche un po' un messaggio. In che senso? Le piste, devo dire, sono molteplici, quindi non saprei in maniera onestamente dirle se è una pista o un'altra, perché veramente non lo so. In una operazione di polizia, quindi voi non c'entrate, ma è stata, diciamo, cercata di allontanare la prostituzione che avveniva davanti agli scavi di Pompei. Come commenta, diciamo, anche le difficoltà ambientali, diciamo, con cui il sito archeologico Pompei deve fare i conti, perché comunque è lì. E quella è una zona anche di difficoltà di altro genere. Qui ci vuole un'azione in piena sinergia con tutte le istituzioni che lavorano sul territorio, perché non sono problemi che possiamo risolvere noi, non è un problema, è sono problemi che può risolvere l'arcivescovo, con cui ho avuto anche ovviamente un lungo colloquio, perché non bisogna dimenticare che oltre gli scavi a fianco c'è una basilica che attira 2 milioni. Certo, la basilica della Madonna di Pompei. 2 milioni di pellegrini, quindi che non, spesso non sono gli stessi, no? Quindi abbiamo qui probabilmente 4 milioni di persone che si muovono nel corso dell'anno. Si lavori insieme perché bisogna veramente restituire questa città alla bellezza. Se Pompei fosse in Germania, tutto questo non avverrebbe? Avrebbero forse altri problemi, ma questo sicuramente no. Sarebbe forse un po' più sicura Pompei se fosse in Germania? Penso di sì, ma noi dobbiamo, quello che dobbiamo fare è cercare di salvare Pompei in Italia, nel senso di renderla bella in Italia, anche intorno, la città è bellissima, intorno meno, allora bisogna cercare di creare tutte le azioni possibili perché riusciamo a restituire questa bellezza. Considerando anche come Pompei ha portato, non so, nel tempo alle dimissioni di vari ministri, è un bel incarico ma è anche una sfida non di poco conto, insomma, non è un impegno leggero. Lei come ha accolto questa nomina? Sono stato molto combattuto, anche poi una persona a Meccara un giorno mi ha detto: ma questo è un dovere etico, ti rendi conto? E io ho detto sì, forse non ci avevo pensato. Nelle settimane scorse ci sono stati anche i controlli della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, sui cantieri, su Pompei. Nel tempo ci sono state diverse inchieste, anche che avessero a che fare con le pressioni o le mire di vario modo dei clan anche su tutto quanto avviene intorno all'importanza di Pompei. Io sapevo bene dove venivo, quindi non pensavo certo di fare un mio nuovo soggiorno di studio o di insegnamento in Germania, quindi ero ben consapevole, per questo che le dicevo prima, qui c'è bisogno di un'azione congiunta. Noi stiamo collaborando quotidianamente con le forze dell'ordine, per qualunque gara che avviene ci sono sempre i controlli antimafia che si fanno, quello quindi certo. È stato lo screening di tutte le imprese e quindi questo. Ci sono stati problemi? Qualcuna che è stata, diciamo, non ammessa per problemi, diciamo, di trasparenza? Per le gare che adesso sto considerando io, no. Ma in passato sì, però. Sì. Mi sembra proprio di sì. Una buona notizia: quali sono le tre ville riaperte a Pompei? Apriamo le due domus che sono all'ingresso degli scavi a Porta Marina, quindi una zona molto sensibile ai flussi turistici, e la domus di Trittolemo e di Romolo Remo. La domus di Trittolomo è bellissima, non è mai stata aperta, ha dei pavimenti musivi eccezionali e tra l'altro esponiamo lì dentro anche dei frammenti a mosaico bellissimi della volta, una cosa rarissima, di un edificio termale. termale pompeiano, la ripriamo anche per la prima volta mettendo a disposizione del pubblico questi pezzi eccezionali. E poi c'è la casa di Marco Lucrezio Frontone in un'altra area di Pompei, che è il gioiello della pittura pompeiana, una delle domus meglio conservate, che sicuramente deve essere aperta. E voi che cosa ne pensate di Pompei? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce, vi ripeto Storiacce, oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!